un incrocio, c'è un tombino con un partitore L, dove divide le, via Forlanini, via, come si chiama, via Forlanini, l'altra è, come la metto, via Forlanini, quella che scende sino alla scuola, dove ci sono le poste, quindi dove c'è un incrocio, l'altra che sale cos'è? Una piccola passeggiatina, poi mi sono buccato. Ma se gli ha nel tuo caso. E gli altri, dentro casa. A chi serve che l'hai passeggiato? Ehi, vabbè, comunque, anche io a volte mi sveglio alle 4, sento sempre l'aereo passando alle 4.25. Ma sei lì? Aereo che passa alle 4.25. Anche io lo sento qua, perché qua passano, a quell'ora, verso quell'ora. Non so, è quello che passa qua, passa lì, qui. Ecco qui, poi 2 secondi, la roba c'è là. Beh, assai da casato di anche. Ma allora anche grandi possibili di essere alghero, con distanze come grandi possibili Porto Torres e Sassari, lo fanno in pochi secondi. Beh, e a Cagliari cosa è buono, cosa di greche è buono, a manco meno di un'ora ci mette. Lo so, 40 minuti ci mette. Gappa gappa. Ecco via l'Antonio. E vuoi più all'atterraggio che arrivi in Chipre. Lo fanno più che altro per riempire i posti, perché deve essere bilanciato lei. Ma no, non ci andrebbero mai così. Chi giocando in base è fatto a Roma, a base alla Firocchi. Mi irrita c'è a Roma. Vero, sono partiti. Cappa, devono andare alla fila del camper, sono arrivati a Roma, adesso devo andare a Parma. Cappa, non c'era la gente che si era comparente già. Camper. E vedo, ne ho visto un bel. Lo so, arriva a casa Luis. Però ha continuato con Viena. Mi manca il parco macchi. Beh, non vai rogo tu. E invece io ce l'ho rogo. Se lo sa mettere al posto macchina. Macchina non dice da buone da voi. Da buone pure. No, non esiste. No, io se lo usi il camper al posto della macchina, cosa vuol dire? Perché lavorare in camper non puoi andare. Non vedi, no, ma con un'altra manca sassere. E allora ti va un uomo fritto. Quando capite già così. Tutto poi va se c'è la cucina. Sto c'è nel camper. E già ne ho visto un paio di camper. Io ci sono anche stato, quindi te lo so. Sai quanto è comodo, cazzarola. Allora, il cugino di mia moglie c'è la grave. Ma per domani è barato. Mi pare che siano 6 posti. E ce l'ha detto che quando siamo andati a trovarli, quando erano in campeggio, ce l'ha detto, noi finiamo questa settimana le ferie, se ti serve il camper, ve lo dici, io ti lascio il camper, tu mi dai la macchina al posto del camper, e ti usi il camper. Gappa gappa. comunque è molto comodo anche, perché figli e 10, vai in villeggiatura, vai da... è più comodo, cioè, piuttosto che stare pagando una camera d'albergo e stare così, per dire, uno che viene da fuori anche, ti ricorda una vacca di dinar, cioè al giorno. Ci sono un po' di dinami in Amberto, invece lì è tutta un'altra cosa, non chi si dinà ti paghi l'assicurazione. Ehi Anto, ma bisogna pagare anche i campeggi, adesso sono tutti a pagamento. Vabbè, ma io con chi sono, con una ruota puoi parcheggiare anche vicino a qualche spiaggia, vicino a qualche posto, così. Non ti fanno fermare, ci sono i parcheggi a pagamento, nei cosi, ci sono gli scarichi, tutto quanto può andare in bagno, sono i bagni con le docce, eccetera, ho garantito per i campionisti. Adesso liberi, ce ne sono pochissimi. Se ve l'hai già il bagno, le cose. Il bagno chimico c'è. Beh, tanto è proprio le posizionate scarpe. Dove ci sono proprio i posti per i camperisti, ci sono anche i bagni a parte, con le docce, con tutte queste cose qua. Si chiamano campeggi organizzati. Se io ho già tutto lì, cosa cazzo me ne posso andare in Ghibe? Cioè, non avevo compreso io. A chi non mi posso punire a faccia a mare, cioè, chi me lo proibisce? Non penso che me lo proibisca nessuno. E invece c'è chi te lo proibisce. Non si possono stare, si possono stare magari un paio di ore e poi basta. Allucino. Che gli arrivi? Chiappagappa. Ragazzi, ti posso vedere che se ve l'avevo avuto, cioè, ero parato in casa lo sabato e non so, l'avevo organizzato un po', cioè, mi sarei messo in un posto dove non va molta gente e mi avrei fatto la graviglia con una rosita e nessuno mi aveva detto nulla. Ma tu, mica li vendono a poco prezzo? Cosa? E camper, ci sono anche 5.000 euro, 3.000, 5.000 euro. Però hanno il macchinario, ce l'hanno tipo Ducato tipo vecchio oppure 238. Cioè, se lo prende uno, secondo me lo prende anche un pochettino, grazie a Dio. Ma solo che quelli, diciamo che non si prende, paghi un bel. Non lo so, il minimo sarà intorno ai 10.000 euro. Di più buono. Hanno detto, vedi, un'occasione di quelli che usavano per presentare le fiere, che se l'hanno comprato. Dopo che hanno finito tutte le presentazioni della fiera, hanno finito, se l'hanno comprato loro. Ma no, minimo visto che hanno fatto pagare un paio di là. Vabbè, un bel dinaro di falcati, perché era come usato, anche se è usato non era. No, no, sono gatto. Io non l'ho visto, ma comunque l'ho visto su Facebook, in fotografia. Ma comunque, come lo stava dicendo Stefano, che l'hanno preso, che era di quelli d'occasione, che praticamente li usano per fare le mostre nelle fiere. Ma è usato, Chiappa, quello era un Fiat Ducato, se non mi ricordo male. Ah, bello, è davvero, è un bel bello. Stavo andando alla fiera adesso dei camper per vedere magari se c'è qualche utensile da prendere, qualche cosa che gli può servire. Chiappa. Comunque è anche grande lì quello che hanno loro. E già l'ho visto. Sta bene lì, Ma poi io c'ho anche dormito in campo. Bene. I letti troppo fini già. Sì. Sì. Ma non è dice craccato, no? No, non cosa craccato. I materassi ce li ha fini. Non si è abituato. Io non ne ho mai avuto, sono povero, non ho mai avuto il campo. Lo so, vabbè. E comunque c'è comodo, grazie. Già. Adesso magari questi nuovi che stanno facendo magari li fanno più belli. Quello dove mi sono seduto io era tutta scomparsa. Si piegava il letto e diventava divano. Qui al centro c'era una pedana, si girava e usciva fuori il tavolo. La pagava. È comodo. Sai cos'è? Quando non sei abituato, cioè no, non è che stai molto bene. Se sei abituato sempre a dormire a casa, e così c'è poco da fare. Io perlomeno sono così. Se vado a dormire da un'altra parte non sto bene i primi giorni. No, io già vi ho detto subito. No, perché a casa ne avevo parecchi di. Invece è diverso per me. I primi giorni mi dà parecchio un fastidio. E dipende sempre. Interessante che non ci siano i quei materassi fini fini, perché io lì non ci dormo. Preferisco dormire in terra. Addirittura. Io non sia che non ho vostia. Vabbè, ma il materasso è buono però. Cioè, è un materasso, è un materasso. Perché ti dà fastidio? Materasso fino, sì. Non mi piace. Tanto quando c'è quel calafoso che non riesco a dormire, mi cocco in terra e non me la fotti nulla di chi su di pensare l'astro. Non puoi bere. Perché è l'unico fresco che trovo è il mattone, se no divento qua con un dromo, mi ci sto sempre girando, mi si attacca tutta la schiena. Allora alla fine quello c'è chi mi segue la rotta di collo. No, io non ci riesco a dormire in terra. Devo avere sempre il posto un pochettino morbido. Dopo 5 minuti viene anche Marco. Marco ha le stesse mie abitudini in tutto e per tutto. Chiaro. Ma io ho amici miei adesso che... Cioè, che vedo la sera con il giubbotto, vanno in freddo, c'ho caldo. E anche io le vedo parecchi in moto con i giubbotti, sembra male di amare che gossi. Io raggiungo i giubbotti e le vedo. Ma il giubbotto vuole usarlo nel periodo giusto. E il motto già non è male usarlo, è il giubbotto, perché viene una stampata al tuo e ti salva. Chiaro, già lo so. Ecco, ma se il muro era arruggato, bello il mare buruviso. Cosa, Antonio? Se il muro era caldo, il mare buruviso. No, quelli in Gore-Tex non fanno passare né caldo, né freddo e né aria. Sono... non ti fanno sudare. Sono giubbotti miracolosi, Antonio. Un acquazzone a dirotto una volta non mi è entrata una goccia d'eva. Pensi, lo buono, fate la viaggia. Mi ho messo i pantaloni antipioggia, l'unica cosa che si è bagnata sono le scarpe perché non c'avevo le ghette. Mi ho messo i pantaloni antipioggia, non si è entrato un goccio d'eva. Cioè, ragazzi, è una ranara, secondo me, fa deva. Quando? È una ranara che si dice, c'è il maestrale, non so lì che ha portato torre, secondo me. Maestrale, maestrale. Ma stasera non era fortissimo, perché sono andato anche lì dove pescano e cosa, e il mare di fuori era forte. Qua invece buffava un bel pezzo. Il mare di fuori era forte, all'interno... Che mi bomba. Il mare di fuori si vedevano le onde. Poi si immagina. Adesso mi ha calata di maestrale fra 3 o 4 giorni e bella andare a pescare. Allora sì che si pesca. Sì. Dico, no, è così. Raga, organizza. Bisogna pescare, bisogna andare. Oggi mi sono imporrato a vedere il pescare, vabbè, che stavo prendendo saraghetti, sparaglioni, roba così. Roba, sì. Ma minori, mi cantugna. Erano dei ragazzini, stavo pescando con delle canette giocate. Vabbè, comunque, già. Ho cominciato a pescare quando gli ho spiegato come mettere i vermi. Prima mettevano i vermi, c'erano i bigattini, mettevano tutti dritti. E non mangiavano il pesce. Ho detto, ascolta, te lo posso dare un consiglio? Sì, dimmi. Allora, ne metti due, li metti normali, e uno lo metti, lo pungi nella coda, di modo che scodinzoli a tirare il pesce. Così ha fatto, ma subito l'ha pigliato. Contento, vero? Ah, mi ha spiegato una cosa bella. Adesso lo so adesso una di più. Allora, ho un più me. E ha cominciato a bicchiare pesce, ma di quelli da fritto, nemmeno, di quelli più piccoli. Io da fritto già intendo 150-200 grammi. Non si è aperto, vero? Ma comunque non devono essere male quelle canne da pesca che vendono questi cinciulli, Sì, eppure la voglio provare. la linea, io dico che è Tom. Sì. Un tipo si scolla gli anelli, si scollano gli anelli, ma vabbè, basta rifare, c'è la cera per farlo. Quando ti si scollano, me lo dici, prendo la cera, la scaldiamo, e li incolliamo di nuovo. Allora, noi cosa lo fa così? Giovanna. E tutti li fanno così, anche. Si mette la cera e poi si scalda con lo fiammifero, poi si mette la cera e si mette il coso, il cimino, quello che deve mettere. Tutti hanno quella colla lì. I pescatori ce l'hanno tutti dentro la attrezzatura sempre pronti. La colla calda usano, perché? E colla calda la puoi usare anche con la pistola, ma capisci va di bene, ti abitura che cosa un bel, quando scalda con l'accendino. Cosa c'è un bel, da lui cosa? Non pare che te vedi, non mi metto mai a pagare da 20 euro. Io, beh, grazie, no. Io scaldavo la cena in uguale. No, ma allora devo fare casino, io ce la puoi prendere la pistola così. Ti voglio vedere quando vai a pescare con la pistola dove l'attacchi. Invece con l'accendino, anche quando vai a pescare, se ti si rompe, te la puoi aggiustare. Ma quello sì, La pistola puoi usare a casa e farlo bene, magari. Ma esce bene anche con l'accendino, si scioglie bene bene. Dico una cosa, che io riesco a farlo pure lì. Avvicinare la macchina e riesco a farlo pure lì. Vabbè, troppo abbracci. Bisogna vedere se la puoi avvicinare, se si rompe cosa fai, la macchina vedi. Vabbè. Vabbè, in caso estremi la fai con l'accendino. No, esce bene, io l'ho fatto anche a casa, in cimino, l'ho rifatto. E è uscito bene. Che pagata. Mi si è spezzato proprio il puntale. Ma basta dare il maio, penso che tutte le canne siano quasi, tutte così, Di scuola, no, non te lo mettere mai in testa. Non tutte. Quando invecchiano magari il cimino, sì, ma questo qui non solo il cimino, anche gli anelli che ci sono dove passa la lenza. Ma comunque un giorno una così me la voglio comprare, da sa. Ma sai quali sono più buone? Quelle in due pezzi che si incastrano, non quelle telescopiche. Due pezzi? Invece sono più buone degli altri. Ebbene, quelle sì. Le altre sono un po' così. Poi una volta sono andato a lanciare, mi si è truncata, tanto ho fatto un lancio grosso, su un frac. Non si deve troncare? Ah, la cosa non si vede nulla, si canta. Canne buone, le paghi 80 euro come minimo. Non lo so, cosa vuoi fare? Ma papà, che pescata migliaia si canta, ne? 80, 160. Quella che ho io costa così. Una, poi le altre lo stesso sono buone, costano un po' meno ma superano tutte le 100 euro. Chiaro, ma cosa c'hai tu? Dai, no, un cavo si chiama. Io ho l'Impus e mulini di Shimano. Per il migliore? Sì, sì, in assoluto. Shimano sono migliori come cuscinetti, come ingranaggi, come tutto. Poi ci sono anche i Daifa che sono buoni come mulinelli. Io ho una canna Daifa che non è in fibra di carbonio, quindi vanno più per la più usare, invece quelle altre sono in fibra di carbonio. Certo, ma secondo me i mulinelli, cioè a quanto mi hanno detto, io non è che ne capisca niente, a quanto mi hanno detto a me, i migliori mulinelli sono quelli Shimano. Sì, la Shimano, ricordati che un quanto ingranaggi e franco cinese, questa roba qua è leader nel settore. Fanno anche il cambio della bicicletta, Shimano, fanno tante cose. Dove ci sono ingranaggi c'è sempre la Shimano in mezzo. Ecco, c'è una vacca di nave, mi sembra sia tedesca, no? Ma non lo so tanto, sinceramente. Non mi ho mai posto questo problema. Girano bene, a me mi va bene così. Ne ho due, c'ho l'8000 del Shimano e poi c'ho il 4000. Sono uno enorme, è grande, ci sono 300 metri di bobina, di 300 metri di 0,30. Non mi ricordo, sempre c'era una casa italiana, non me la mento bene, c'è tedesca o italiana, uno di sono le due. Che cosa? Mano. Non lo so, non posso dire, non l'ho mai guardato. Sono, poi rimangono sempre lucidi, a quanto mi hanno detto, Invece l'arte diventano un po' garezzo. Vabbè, con l'invecchiamento dipende anche come li tieni, vuol dire che appena tu finisci di pescare vogliono messi sotto il rubinetto con l'acqua dolce. Lavati bene, poi aprirti, messo CRC, grasso e via. E riconservati. Vogliono ingrassarti. C'è il grasso per i mulinelli, troppo. No, io sono grasso normale per ingranare. Sì, ma io sono quello bianco, non me ne ammetta, ma... CRC è grasso, Comunque vogliono ingrassarti, dai. Cappa, ma non sempre, è a fine stagione, però la cinquantina di acqua e un po' di CRC glielo metto sempre. Allora non le fa, cosa usi tu? Il Marine 666? Cappa. Sono migliore, soprattutto quando deve far partire il motore, mamma mia, chi si dice sfugliatori che non partono da tanto tempo, tu li sfrutti quella, lo sai come ti girano? Lo so, sì, ma è avuto roba quasi bloccata che mi ha girato, tipo le ruote del carrello della spesa, questa commessa me lo voleva far portare via, poi se c'è le cicci. Aspettato un pochettino, l'ho spostato fuori, poi ha cominciato a camminare, poi mi ha telefonato, mi ha fatto tutti i messi l'olio, mi ha fatto tutti i segni nel pavimento, ma non la fanno. Rubato non funziona. Ma io gliel'ho fatto fuori per non sporcare dentro, solo che come girava tanto c'è poco da fare. Beh, logico. Mettiamo adesso gira, meno male. Sono mai contento. Beh, mi devi, se li dai la luna vuole il sole, se li dai il sole vuole le stelle, se li dai le stelle vuole l'universo. E io pur di non caricarlo gliel'ho aggiustato. Luce entrare bisogna andare quando si scuffano i russi. Ragazzi, quindi, no, già sono buoni, addirittura io il PTT ho provato quello lo spray per contatto e non andava bene, lo facevo lo stesso rumore, oggi ho provato che su GRC anche una cannonata. Cavolo, soprattutto il Marine 666, che è una bomba, in quei cavolo di cespugliatori si deve far partire, si deve dare l'anticipo. Li fa la mano di Dio, cioè proprio li mette in moto. Cavagala. Per il motore Marini è micidiale. Comunque anzi il campo quando te lo compri. Andò con la giovedina. È bello, ma vuole mantenuto. Sì. Ah, cioè, quando non vai. E tanto l'assicurazione la fai la puoi fare, è diverso dai nei camper, la puoi fare anche per tutto il mese estivo, per dire. Poi quando entro una parte per metterlo e lo metti, cioè, in un terreno privato, dai. Copiato. Diciamo che il camper lo puoi assicurare anche per un mese. E quello che ti serve, se non mi ricordo male. E dopo quando è, te lo pone in cacca lungo, onde non lo tocca nessuno, cioè dove non entrava senza assicurazione. Quando, quando ti serve lo torni a assicurare e via. Ci ha detto la gente che nel campo ha detto si attacca molto, dove si vanno i brevi? Il surf è sopra, la moto, una moto grossa dietro, mi si regala in bocca di cosa. Si può caricare, là. Poi adesso c'è una dispensa sotto, cazzo. È venuto uno l'altro giorno, mi capita una mano. Certo, non c'è problema, poi viene tre carri di beni di roba, uno la Bilatua Edur, uno la moglie e uno la Bilatua Edur, li stavo aiutando, c'erano sotto una dispensa tanto grandissima. Sì, adesso la portata è vecchia. C'è uno sportello, uno sportellino, non lo apri, e c'è tutto il fondo di Lugamba, è un bel di ruba. Bello, è già. E cos'era? Un Ford, un Fiat, cos'era? No, non era né Ford né Fiat, un Laika. Oh, chi sei la marca del corso? Ah, tu mi stai chiedendo la macchina, che macchina era? Mi sembra che era il Ducato nuovo. Allora ce ne fai così, nei cerchi bombati erano un po'. Con lo semino rosso Fiat, cioè. Non me lo ricordo questo, dico la verità, però mi è sembrato un Ducato. Poi se magari la Renault, non lo so, mi è sembrato un Ducato però dai fari. Ed era nuovo, nuovo, aveva ancora profumo di nuovo. Ho visto le rovici in mezzo. Solito sono quelle. Ma era grande mia, stavo per la mano, c'era lungo lungo. Non lo posso immaginare. E lo c'aveva la mansarda sopra. Cigarese, pieno tu sì. E che si vedete? Ciao, che va. Benedetto non si è data burtasia. Mi è capitato, c'è anche la mansarda. Ma sono comodi anche. Felici tipo di quelli che anche sopra. L'ho visto anche della Iveco, l'ho visto, lo sai. Quello è bello. Fanno puro. Iveco una sterzata allucinante. Che fa? Iveco brutto. Come cavolo si chiama? Camper, dai. Fiat Iveco. Vedi, sarà. Yeah. Quello non mi piango ancora quel mezzo lì. Sì, vabbè. Detto che il nuovo te lo poteva prendere. Io ho abbigliato un abbigio in base proprio... Dai, ha consumato già le gomme dopo 30.000 km. C'è il carico, deve essere. E già, ma c'è le cose, c'è l'Iveco delle, come quello che ho visto, il nuovo, la nuova versione, c'è. Cioè, il suo deve essere un bombo. Cappagappa. Ma deve essere una bella vita quella dei campionisti, Gara, è bello sì. però c'è qualche terreno capo, cioè qualche luogo anda così puro. Prima faccio lanciare in pinetta, adesso tutto proibito. Da chi non entra in pinetta, andare a quel luogo così e via. Io ho visto che è lì verso, come cavolo si chiama, verso, bah, verso l'Argentina, da lì ho visto che ci vanno. Cioè si mettono un pochettino distante dalla spiaggia. Ci vanno, se c'è il divieto e li beccano, li mettono la multa. E sono multe grosse, e rimanno per dire, hanno fatto tutti quanti espropriare. Chiaro, ma non è che c'è buono in denaro, cioè ti tiene un po' distante verso la strada dal mare. Io non penso che nessuno ti dica nulla. Non ho detto cosa anche a gente che conoscevo, fatti lui conto, cosa erano in cartoni, le cose, e me l'ha messa dentro. Ma bene. Perché? Come non ho detto cosa? Cosa stava vicino? Ho capito, secondo me non ti diranno assolutamente nulla. Li hanno espropriati, lo sai, mezzo in mano, li hanno fatti andare tutti via, campiliste e campeggiatori. Mi sembra comunque una cosa giusta, Lo so. E lì andavano tutti prima perché si sta bene, c'è il posto per tante roulotte, tante gambe. Chiappa. Ma la ragazza devo pagare, cioè se mi raggio devo appurarsi pure così. C'è un posto lì, mi fermo, non sto invadendo niente, quindi mi devi lasciare le palle in faccia. Ma non è territorio comunale quello? Ma no. Il terreno è del comune oppure di proprietà. Mi stai invadendo un terreno. Vabbè, ma cioè. È come che sia un parcheggio, va. Certo, ma io già sono sicuro che già si può andare in certi punti. E non solo. Certi punti dove non c'è nessuno, soprattutto d'inverno, non si rompe le palle. Cosa ne so, compigli un paio di amici così, bomba, ma di... Aio, andiamo a Rocchi, via. Sarebbe bene. Possibilità ci vuole. Addirittura quando c'era mia sorella in campeggio con la roulotte, c'era questo, c'era un camper enorme, c'era fatto la veranda, come si fa in una villetta, chissà quanto ben fatto, tanta. E in più per guardare il televisore ti dovevi sdraiare in questa sedia e ti vedere più il televisore per domani. Roulotte non mi piace. Cosa? Roulotte. È uguale. No, non mi piace. E se ne vedi certe roulotte, trovi il campo, insomma. Allora io ti parlo delle roulotte di Matterland, quelle del circo, mai viste? Vabbè, che si sono male. Quelle sono roulotte vere, si sono ville e viaggiamo. Quelle sono ville, sono, credo, che se vuole dire, le cose morchio. Sono belle case, viaggianti, ma sono case. Ma ce l'hanno anche fissa la casa, non ti preoccupare. Allora, io ho detto un altro discorso. Palle. Aspettate un cazzo la porta qua a vedere i gambe. Cazzo cado. Belline. Che cosa sono i gatti? Tutte due vicini vicine. Tutti va, tutti, ti ha vomitato stasera. No, deve essere che ha mangiato qualcosa che non l'ha mangiato. No, ha mangiato le crocchette, sicuramente è avido come ti mangiano. ho mangiato troppo e non mi lavo te la cazzata, a volte anche il pelo mi chiede fa fare quel lavoro. Le cose, le piantine, non è a casa, solo ci mangia le piante pur. Lo so, quelli purgano il pelo, fanno purgare il pelo che si forma nello stomaco. Che appagava, che belline quando sono pulcine. Tu gliel'hai piantata l'alba gatta? No, ma già basta che c'è il pelo. Che erba è? Che erba è casa mia? Ma non piante si mangia? Marijuana pianti, no? Ma cosa? Quanti si mangia? Il peperoncino in tu? Tu tenta, andate, ma io ti incurro però. Metti il peperoncino nella terra. Che loro quando vanno lì sentono l'odore e si allontano. Che ragazza. Quanto sono belle però quando sono state due vicino. Ehi, ehi, non mi vedi la barra. Rispettano. Poi la forza di Maracana ho dovuto l'amicizia. Ma voglia, prima lo so chiappa. Tutti fanno così, sono territoriali anche. Ma chiappa. Comunque abbiamo scoperto una cosa. Che cosa? Era Sofia. Sofia? Va. Neanche Sofia? L'abbiamo fatto vedere un altro gatto, la Sofia. Beh, è territorio suo, chissà. Che appagava. Per fortuna di Sofia, è distinto. A mia colare non mi angola, ma Sofia è da Sofia. Com'è Sofia? Che cosa è che... Ma sei tu? Ma chi ti accompagna con le zampe? Ma sei tu appena appena leggero? Dove c'è da fatti? Dove c'è chi da fatti? Luca anche gli artigli così? Sì. Ma pure Luca li tira gli artigli, già. È piccolino ancora, lo so, pretendi, quando è grande lo vedo. Ah! Piccolino ancora. È un tigridino. 8 mesi già. Caffa, è un mazzano questo gatto. Non semina manco il territorio. In che senso? Lui, i tuoi gatti sono così, lui non lo fa quello. I gatti maschi lo fanno quando sono in calore però. Non è che li va sempre, no? Quando sono in calore lasciano cadere delle gocce di pipì in terra, di modo che attirino la femmina che è in calore. Quando la femmina vede le gocce, comincia a miagolare, miau, miau, e lo fa, comincia, oh, il maschio. Certo, non fate né uno né l'altro. E lascia arrivi a farlo. Non è che lo deve fare per forza presto. Se trova la sua gatta preferita. No, non lo fa, è tranquillo. Avrebbe già dovuto fare casino, eh. Oh, io molto detto non finne. Ma vivo, eh. In genere lui non mi agola. Miagola piano perché è ancora piccolo. Cosa che c'è bello grande? Niente, è un cucciolone, dai. E dall'ultima volta che hai visto tu c'è un grande tombe per me. No. Cappara, perché non come finita tu cominci già ad essere adulta 2 anni. Chiappa, ma no, ma avrebbe già dovuto fare casino. Mi, accere su già la piscina. Ma non parlo di piume, non è che... Tanto non riesci a controllare poi due se entrano in calore, guai. Cioè adesso già non va a entrare di sicuro. A chi va sul coso lontano? Che sterilizzata. Mi ha fatto bene sterilizzare, anche io l'ho fatto. Se dobbiamo fare a lui. Io lo devi crastare. Lo so. problemi è che ho preso, stanno male quando... E poi la pipina, tempo che si accusami, la pipina io tre calore. Ma io che non le guardo di queste cose. Tanto la natura lo fa quando è più grande. Non sappiamo il perché, ma non è né miracolo hanno fatto queste cose. Intendi che sta pulita appena. Una pagliaturina, c'è la minore, avete fatto un casino, niente, lui non lo fa. Ma sicuro sei un maschio, mi pare il mio agulio di una femmina quello lì. Sì, ti accegliare a lei, non ti preoccupare, ho vicino a un altro maschio, mi ha soffiata, ho vicino un'altra femmina, non riparti nulla. Ma cosa? Ma poi ci fai che c'è le pallette. Io gli avrei fatto fare una cucciolata prima. Dove? E lo sono fatto. Ma buono, il giorno, una di... c'era qualche gatta tribolia. Oh, non ci vai in giro. Io penso che magari se lo facendo. Già non vogliamo che prenda niente. Immaginiamoci se lo mandiamo in giro. Adesso guarda. 1:38. Siamo a casa. Adesso ci vuole un bel persiano. Carina, lasciali stare. Si è fatto il trio. Non c'è due senza tre. Facciamo due. Paga, poi anche due che sono. Pagata. Ah, vedo che sono abbastanza tranquille, non so di chi ti cagazzi, non so di chi degli altri che non vanno addosso a nessuno. Cioè, come ti vede, cugina senza allora, mi piace estraneo. Esatto, volevo portare a fare il vaccino. Ah, mi accerto se deve portare Monica. A ottobre. Adesso deve portarla a fare il vaccino. Io il 4 ottobre. Caramba. No, adesso deve portarla. Anche con le sospese. Lo so, ce le richiamo ogni anno. So, se non lo fa perdi tutto quello che hai fatto. Lo so. Tocca rifare tutto da capo. E a quelle. E lo so, e facciamo tutto noi. E faccio anche il bagno a Titi. Che noi? E lo faccio io però. Anche noi tocca farglielo noi, qualcosa si butta. Il sacco con gli occhi aperti si guarda. Per fare il bagno ai gatti bisogna mettere pochissima acqua. Se è possibile che si può prendere una doccia, dove glielo fai? O un rubinetto? E devi fare la doccia come te la fai tu. E basta tutto lì, saponarlo, pulirlo e via. E poi rimane bene. Lo so, non li devi dare né agli occhi né alle orecchie. Lui è sbarra gli occhi, sbarra. Invece, cosa? No, c'è già rimane buona. Invece Lilli, quando ci avevamo a Lilli, faceva miau, miau, con gli occhi sbarrati. E lui era bello lo stesso. Lo so, a noi ci dispiace tutto un bel. Lo so. Per me rappresentava una cosa importante, vederlo vivo nel vegeto. Lo so, se ne è andato. Lo so, non è colpa della gente. Era un bel gatto lo stesso. Chissà. se riuscirò a vederne qualcuno, altro mi sono detto, boh. Non lo so, non abbiamo, non sappiamo neanche noi perché c'è sul tutto. Abbiamo trattato benissimo, ma come trattiamo bene a loro due. Mi spiace tutto, per trovare anche Antianotta. Ci credo. Ci credo. E vabbè, ma se ci va questa costa lì come è caduto. Lo so, vabbè. Perché rivedevano anche quei momenti che viene al gatto, mi ricordo, eccetera, eccetera. Preparata, corrente, si è fatta male. E vabbè. Non so quello che sia. Ma il gatto, cazzo, è difficile perché si faccia male. Solitamente, infatti dicono che il gatto ha sentito vita, addirittura Titi è caduto al terzo piano. Che era piccolino e magari ha ammortizzato di più il colpo. Si è appagliato. Quanto mi dispiace, non me lo voglio manco ricordare quel giorno lì. È caduto male sicuramente, perché il gatto di solito cade con le zampe allargate e cade proprio di zampe. Una barriera frattimata, ragazzi. Mi sa che sia lì che la padrona non ha avuto molta fortuna. Non lo so. Però pazienza. Adesso questi come li ha chiamati? Nerone e Ceres, scusi. No, lui si chiama Nero, si chiama. Nero? Il Nerone si chiama. Nerone è bello. La mia chiamata Pantera. Pante, vieni qua, Pante. Molti dicono il gatto nero, a me non me ne frega nulla. Io lo voglio bene, secondo me è solamente un gatto. No, non credo a quelle, a tutte quelle scemenze che dicono. Si sono abituati, santo. Tutte credenze di gente ignorante. Non è una iatta e basta. Infatti, per quelli neri sono per i più belli perché non li ho picchiati. Ti fa ridere, è anche un carattere buono, cioè, è bravo, poverino. Ma se vengo io mi graffio. Se aspetti che ti graffia Nerone, con Miceles bisogna stare un po' attenti, ma Nerone è proprio bravo, poverino. Però è bravo anche lei, però se non ti conosce giustamente rimane un po' diffidente. Deve essere geloso, un po' selvatichino. Ma forse perché era abituata solo con tua sorella e non vedeva nessuno e quindi non è, è un po' avarista. Meglio pisci a lei. Mettiti, lo chiamo e viene tranquillamente. Ma è normale però. Dicono il gatto non è intelligente, altro che non è intelligente. Ma soprattutto Zagare era un padrone puro. Io l'ho constatato, non c'è nulla da fare, sì, con me viene lì, ma quando chiama la padrona è tutto diverso. Anche io sono l'unico che chiamo Titi e viene, lo possono chiamare chiunque, non c'è nulla da fare. Normale, è così. Anche a me è nero, cioè, molte volte io lo chiamo, cioè mi obbedisce, perché così è, c'è anche il padrone. Poi a vecchiaia già era coccolona, se è diventata ancora più coccolona, se non li fa le coccole, prendi se seduto nella sedia e si mette in piedi sopra di te, sale sopra con le zampe e ti tocca per accarezzarlo. E te non ti ha mai chiamato anche da quando te ne svegli la notte? Che per esempio entri in bagno, non ti chiama? No, quando entro dentro, mi fa mia mia. Marsiglia, anche pure in coppa con i bombe. E ti proprio ti saluta la macchina, sembra che ti cacciamo. Miau, miau. Fate miau, vuol dire che pure i coccole. Miau, un dopo da mangiare. Ma il tuo non li trasporta questi? Oh, appena. Li trasporta e poi si mette sopra di palma. Ma vabbè, non ti faccia fare le bara. Allora, se per dire qualcuno a casa si spoglia, cosa si cambia, mette la roba sul letto, basta uno scialle, una cazzata del genere, prende lui, fa, e lo porta a porta tutto in cucina. Lui c'è di via e di cocca. No, lui si fa, se lo palpa, se la palpa. Con le zampe davanti di dietro, sta sempre palpando, fa uè uè uè, fa un rumore strano. Mia, allora la parte, se si lascia sentire un gassato, lo pigliate tutto, e se lo porta tutta la casa. Ti dico se dove si curica, d'estate si curica, non lo sta ci dovevamo all'interno. Se lo allarga si coca, invece di vero non è tappetti. Una cosa suicidata. Così fanno. La macchina che prendo quel pettine per pettinare a lui, glielo passo sul tappeto perché se mia moglie si è trovato quel pelo guai. No, è pelo lungo, Invece pelo corto non è così, non lo perde il pelo. E quando c'è la stagione che lo cambia lo perde anche di meno, ma lo perde. Sì. Ma non ti credi, no. C'è la stagione che le cade, tu. Tra una stagione e l'altra lo perdono. Cioè, però, no, io no, Titi no, non lo perdeva mai, non lo ricordo, neanche Nero. Ceres, non me lo ricordo. Sì, Ceres glielo perdo. La macchina mi l'ha rasata. Ma c'è quando cosa li dai però a mangiare, lo sai, se lo perdono di più. Perché prima anche cosa lo perdono? No, io lo so per fare la stessa cosa. Perde? Lo perde nel cambiamento di stagione. Che poi boh, adesso vediamo. Se lo perde però nero. Ascoltando sento il voce sottofondo. Voce sottofondo? Ma non quando parli tu. No. Quando tu non parli. E a te che? E a roba di fuori da. No, a te non già. Oggi gli è saltato sopra, lei era in giugazzata, l'ha picciato poverino, L'ha scarasciato, lei che salta. Scarasciato. Oh, gli è saltato sopra, l'ha picciato. E fa un bel ridere quando giocano. Sì. A chi è da minore? È da enorme, è dove è il minoretto. E sta le ore a fare. E tanto siete questo pesce. Gianni. Eia. Come stanno lo sai? Oia, però devo chiudere perché c'è tardi da. Ci sentiamo domani. Buonas noches, muchacho. Ya, dillo, non c'è problema. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao.